Grimaldo, principe di Santa Fior, che pensi? Coperto son. Quel magico stupor ti invade i sensi. Pensi a Madonna Laura, dal vige paduerò, chi sei? So tutto, so tutto, e penetra in fondo il tuo pensiero. Avesti culla in Genova, renche non son, sui flutti vidi un vascel, sono dolmato. Sento Giordano per tutti, ma non per me. Venezia t'ha proscritto, ma un forte desio più ancora ti trasse ad affrontar la morte. Amassi un dì una vergine, là sulla tua mar beato, a estranea i mene vittimo, la condannava il fato. Ho giurato fede a Gioconda, la cantatrice errante. Amico me, sorella, ma Laura come amante. Già disperavi in ferro di riveder quel volto, ed or sotto la maschera l'angelo tuo s'apparve, ti riconobbe. O giubilo, o giubilo, ooh!